troppo felice sorte al disperato saria bramare l'ottener la morte. E prendi poco cuore quel vincitor che contro il vinto è forte. Schiacchisi l'aureo mano, già l'afferro lo scuoto. Oh, come forte e profondo nel tronco egli si incalma. Ma cederà di belto se nell'usata possa non è priva la mano. Al fin lo sento!